pensavo che fossi così, non pensavo mi facessi male. Sono stato così stupido, la gente non cambia, non rimane uguale. E mi chiedono perché ti illudi. Siamo tutti maledetti lupi. Resto da solo, non mi muovo, chiuso dentro sti 3 metri cubi. Sopra i vetri con i piedi nudi. Scrivo al nero di seppia, non lo voglio leggero. O che il vero si perda, non voglio che sia il Vangelo, ma che sia una leggenda. Viandante in mezzo alla nebbia, diamante in mezzo alla merda. Con voi non ho un'amicizia, siete persone di sfondo. Ed è solamente pigrizia, se ancora non vi ho rimosso. Mi spiace solo del tempo, quello che ho perso per ottenuto il rimborso. Più sopra più mi rinforzo, no che non sono lo stesso. Sempre da solo e depresso la maggior parte del tempo. Faccio lo sforzo, sopravvissuto a quei iene. Libero da mio rimorso, l'amo più forte che posso. Il cuore mi esplode nel pozzo. Fuori piove, piove. Non sbucco che quando fuori piove, piove. Dai mie tasche piene non le lascio. Fuori, fuori. Fate il gioco poker con le pacco. No, te, piove. Gioco a poker, riempio il mio poker. Top rap di ste basi, ci scrivo frasi di Butler. Sopra il tavolo note, poche salsa cipotle. Ce ne andiamo in vacanza, sto cash che avanza ci copre. Baby stringimi forte, lo sai che sono il tuo totem. Sono la merce che vende senza promoter. Sono soltanto tuo come il cielo e solo del sole. Sogno ste troie sotto le ruote del mio crossover. Sto 180 corro, non me ne rendo conto. Asso è fatto ogni sporco, conforti questo mondo. Voglio soltanto fumare un joint e baciarti il collo. Ma è così bello che non mi stupirei fosse un sogno. Piove, io sto come quando fuori piove, piove, fuori.